che prelude un album che probabilmente uscirà il 10 aprile per Warp Records, un brano un po' atipico per le produzioni di Tom Jenkinson, perché inizia senza grandi movimenti ritmici. Noi sappiamo che Square Pusher ci ha abituati a un drill and bass abbastanza selvaggio, ma in questo caso devo dire la ritmica è abbastanza quieta per le attitudini di quest'autore. Andiamo avanti con i lavori delle novità 2026. Si tratta di Nathan Fake, il nuovo album che si intitola Evaporator. We'll be right back. ascoltato era Nathan Fake, Evaporator, nuovo album 2026. Ma andiamo avanti con un'altra novità. Si tratta di un autore che si fa chiamare Promising Youngster, ma in realtà si chiama Diego Cadierno. Il lavoro che già stiamo ascoltando è un EP che si intitola Navaras, pubblicato da Analogical Force. For your ears, for your heart, for your soul, for your brain, this is Oxygen. e vi ricordo che state ascoltando Oxygen in compagnia di Amptech. Questo era Diego Cadierno, un extended play pubblicato da Analogical Force che si chiama Navaras. Ma andiamo avanti con Anthony Naples, nuovo album che stranamente, per come ci ha abituato quest'autore, è un disco abbastanza ambientale, senza grosse progressioni ritmiche né tantomeno cassa dritta. Anthony Naples. listen to oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is oxygen. Questo era Anthony Naples da questo lavoro che si chiama Scanners, pubblicato da Hans Recordings. Andiamo avanti con un artista che abbiamo già avuto occasione di ascoltare, si tratta di Midori Hirano. Il titolo dell'album 2026 è Autonoma ed è pubblicato da un'etichetta che propone sempre musica sperimentale molto interessante e abbastanza eterogenea, che si chiama Thrill Jockey. Thank you. E questa era Midori Hirano su Thrill Jockey Records. Ma andiamo avanti, rimanendo sempre in Oriente, un'etichetta che normalmente pubblica lavori di artisti cinesi. SVBKVLT Records, il lavoro è di Goose con 5 O, che in realtà nasconde Han Han, l'EP si chiama Wriggle. Che state ascoltando la trasmissione di musica elettronica Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network, in voce con voi Amptech. Questo era Han Han, ovvero Goose, su SVBKVLT Records. Wriggle è il titolo del lavoro. andiamo avanti con il nuovo disco, nuovo extended play di Pugilist. Questo era Pugilist dall'extended play Maternal pubblicato da Shall Not Fade. Il brano era Marigold, un disco abbastanza tipico per questo artista che conosciamo attraverso le sue precedenti pubblicazioni. Adesso andiamo avanti con un'altra novità 2026, si tratta di Sonic Area, ovvero Arnaud Coeffic, un lavoro che si intitola End Shadow, pubblicato dalla Anzen Records, un'etichetta che proponiamo spesso, che è un'etichetta storica della musica industriale elettronica già a partire dagli anni 90, Sonic Area. We'll be right back. oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is oxygen. Vi ricordo che state ascoltando Oxygen, in voce con voi Amptech, Sonic Area su Anzen Records, un'etichetta sulla quale torneremo più tardi per un'altra novità uscita da pochi giorni. E adesso torniamo in Italia con Mai Mai Mai, ovvero Tony Cutrone, che pubblica su Maple Death Records il suo nuovo lavoro Caracos, realizzato con musicisti palestinesi. Ascoltiamo il brano Down on the Cremisian Valley. Oh. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questo era mai su Maple Death Records, l'etichetta, se non erro, di Bologna. Ma andiamo avanti con un altro artista che ama le contaminazioni abbastanza estreme, Sam Shackathlon, il suo nuovo lavoro che si intitola Euphoria Bound, pubblicato da AD93. Thank you. e questo era Sam Shackathlon. Euphoria Bound è il titolo del nuovo lavoro, come sempre interessante e altamente contaminato da varie influenze. Passiamo a un artista scandinavo, Evict Mørker. Il suo sesto album, suppongo, perché si chiama Six. Ascoltiamo la seconda traccia, di cui non tenterò nemmeno di pronunciare il nome. We'll be right back. vi ricordo che state ascoltando Oxygen in voce con voi, Amptech, e questo era Evict Morker dall'album Six. E andiamo avanti con un'altra volta con un progetto italiano, questa volta si chiama Suoni Incisi, ha fatto una serie di produzioni anonime utilizzando sempre questa sigla a nascondere i vari autori e produttori che in realtà realizzano materialmente il brano. Suoni Incisi è il secondo lato dell'EP pubblicato nel 2026. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you. E questa è sempre Oxygen, Suoni Incisi, il progetto di Firenze anonimo basato soltanto su questa sigla, che pubblica in modo abbastanza sistematico una serie di vinili con questo tipo di sound abbastanza lento e ipnotico. Ma andiamo avanti con un artista che abbiamo conosciuto al fianco di A.G. Cook, che gli ha prodotto il primo album. Si tratta di Charlie XCX, una cantante dedita all'hyperpop e che probabilmente aspira a entrare nell'alveo degli artisti pop veri e propri, ma nel frattempo pubblica questo nuovo album che vede la presenza di uno dei più importanti autori, compositori, musicisti dell'avanguardia degli ultimi 60 anni. Si tratta di John Cale, che è stato suonatore di viola nei Velvet Underground, il famoso gruppo che Andy Warhol prese sotto la sua ala negli anni 60 e che in qualche modo ha anticipato tutte le sonorità dell'alternative rock, della new wave, del punk, con 20-30 anni d'anticipo. Nuovo lavoro quindi di Charlie XCX, questo brano è con John Cale. Created? For what? If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty, say it's enough. You're listening to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questa era Charlie XCX con John Cale dei Velvet Underground, un'accoppiata veramente imprevedibile. Andiamo avanti con il nuovo extended play di Cavari. Thank you. For your soul, for your brain, this is Oxygen. E vi ricordo che state ascoltando Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network, in voce con voi Amptech. Questa era Cavari, il nuovo extended play di questa produttrice che ha avuto una certa notorietà perché Aphex Twin l'ha citata e l'ha inserita nei suoi DJ set. Plague Music, distribuito da XL Recordings. Ma andiamo avanti tornando ad Anzen Records, di cui abbiamo parlato poco fa, che rilascia il nuovo lavoro di Converter. E questo era Converter, un progetto che torna e che vede luce su Anzen Records, The Four Last Things. Ma torniamo in Italia e cambiamo completamente sound, spostandoci verso un electro molto classica da parte di uno dei più importanti DJ e produttori italiani degli ultimi 35 anni, Marco Passarani. Metatool è il titolo del brano. Marco Passarani. We'll be right back. E questo era il grande Marco Passarani, Metatool, qui a Oxygen. E andiamo avanti con un altro nome storico, questa volta da Detroit direttamente, sempre un singolo rilasciato nelle piattaforme, Robert Hood, The First Night. E vi ricordo che state ascoltando Oxygen in compagnia di Amptech dopo Robert Hood. Passiamo a un'altra novità 2026, si tratta di Speedy J che rilascia un EP a settimana praticamente. Questo è il progetto Stour, si chiama Soundchecks 2, l'extended play che è distribuito, autoprodotto appunto da Stour, Speedy J. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Questo era Speedy J col suo progetto Stur, un nome storico della dance elettronica sperimentale europeo già dagli anni 90 e non ha bisogno di presentazioni. Nuovo lavoro anche per Decoder. You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. E vi ricordo che questa è Oxygen, dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network. Questa era Decoder dal suo nuovo album con ben 20 tracce, pubblicato dalla Planet X, che si chiama Prakasa. Ma andiamo avanti con Juan Pablo Firter, nuovo extended play Black Sun, il titolo del lavoro, pubblicato da Mind Trip Records, altra novità 2026, sempre in territorio ovviamente techno. Thank you. is Oxygen. E vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech. Questo era Filter, il nuovo extended play che si chiama Black Sun. Andiamo avanti con Positive Merge, la traccia sempre 2026 si chiama I See You. Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questo è sempre Oxygen, I See You di Positive Merge. Ma andiamo avanti con la traccia conclusiva dello spazio in voce di Oxygen. Ma vi ricordo che la notte di Radio Samarcanda Digital Network proseguirà con suoni elettronici fino alle prime luci dell'alba, selezionati dal nostro team. Salbani, The Man and the Raven, chiude lo spazio in voce di Oxygen.